I-L-V-E-R-O-P-A-S-T-O-R-E, Abele offrì a Dio dei primogeniti del suo gregge. Il significato del suo gesto è che egli, dopo tutto, riconosceva l'appartenenza di quel gregge più all'Eterno che a lui. Il compito dei pastori d'anime è pascere il gregge di Dio. Il gregge dunque, appartenendo a Dio, non è più degli anziani. I pastori cristiani non devono signoreggiare sul gregge. Essi devono, semplicemente, curarlo, nutrirlo e farlo crescere in libertà. Gesù ebbe una visione, piena d'amore e di compassione, per il gregge, che non era ancora suo gregge, ed iniziò a nutrirlo preparando, per quest'ultimo, un gruppo di pastori. Il vero pastore non offende il gregge, egli lo difende. Venendo arrestato per opera di soldati, mandati da falsi pastori, nell'orto degli ulivi, Gesù mise in luce il carattere del vero pastore, preoccupandosi non di se stesso, ma del suo piccolo gregge. Se dunque cercate me, lasciate andare questi. Giovanni 18, 4 a 9. I pastori, costituiti dal sommo pastore Gesù Cristo, seguendo il suo esempio, si impegnano affinché nessuna pecora affidata loro si perda. Gesù pregò, Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Conservare il gregge nel nome di Gesù Cristo, come Gesù lo conservò nel nome del Padre, significa imprimervi il carattere del proprietario, non il proprio, umano, carattere. Si riscontrano pastori e pecore che non hanno nulla in sé del carattere del Signore, adirati, litigiosi, gelosi, invidiosi, avidi, maldicenti, sospettosi del male, avari, tristi, ipersantissimi, gonfi. Nessuna pecora, bel gregge di Dio però, perisce se è curata da un pastore eletto da lui, tranne quella sorda ad ogni insegnamento, insanabilmente ribelle, che frequenta abusivamente il gregge, figlia della perdizione. Anche il pastore, a sua volta, è pecora del gregge curato dal sommo pastore Gesù Cristo. Perciò anche lui è soggetto a debolezze, a tentazioni e prove. Bisogna dunque aiutarlo. Ha bisogno anch'egli di consigli, di consiglieri e di una pecora amica. Guai ai pastori che depredano il gregge. Tutto quel che il gregge produce è per la sola gloria di Dio, non dell'uomo. Non devono esserci, nella Chiesa, pastori padroni, né di greggi, né d'ovili, né d'anime, né di locali di culto o d'altri beni congeneri che la Chiesa stessa, con l'aiuto di Dio, si sia procurati. C. È diversità di spirito e di intenti fra il pastore e il mercenario. Il primo ama il gregge fino a dare se stesso, se fosse necessario. Il secondo ama se stesso fino a consumare il gregge, anche se non è necessario. Il vero pastore è amato e aiutato dal proprio gregge. Il falso pastore esige l'aiuto del gregge, che non è il suo, fino a dissanguarlo. Il vero pastore continua ad amare e aiutare il gregge, che Dio gli ha affidato, anche se non è ricambiato nell'amore, anche se non riceve da questo alcun aiuto. Il falso pastore, la cui ambizione non è appagata dal gregge, fa presto ad abbandonarlo, a percuoterlo, a straziarlo ed infine a fuggire. E sicuramente da disprezzare quel pastore che, per giustificare la sua condotta, si nasconde dietro al gregge. Ma soprattutto va ricordato che il gregge di Dio è uno solo, la sua Chiesa è il sommo pastore sono uno solo, Gesù Cristo. I suoi pastori e le sue pecore ascoltano la sua voce. Essi non seguono gli stranieri e nessuno li rapirà dalla sua mano. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Tratto da